Io sono il Minotauro ed ho un problema consistente che spesso non colpisce l'occhio ingenuo della gente. Io sì, sono famoso per la mia mostruosità, ma c'è anche un'altra cosa che il mio pubblico non sa. Io ero l'aguzzino di una povera fanciulla e il labirinto era la mia casa e la mia culla. Poi un giorno venne un prode che voleva liberarla e qui la storia mente, la sua prova non fu ardua. Fu io che quando vidi l'opportunità di cambiare vita ed andarmene di là, qui ci fece entrare l'ardito cavaliere e poi fuggì da credermi in batte in balie del mare. In questo lungo viaggio incontrai l'amore mio, e quanto ci piacemmo lo sa solo Dio. Lei era una creatura bellissima ma in pena, lei era una dolcissima fantastica sirena. Sirena, sul mio spoglio me ne stavo, cantavo tutto il giorno, io mi ammaliavo. Le male lingue dicono che Ulisse io cantai, pensando invece che mi feci anche marinai. Però c'era un problema, perché come sirena son figa per metà, ma per il resto fa un po' pena. E i marinai mi amavano, ma dalla vita in su, e quasi la mandibola io non la muovo più. Insomma, quel bel giorno mi vidi sto mastione, che bello aveva il fisico, ma avevo un capoccione con due enormi corna, e subito ho pensato che quando mi ricapita questo abituato. Difficoltoso, perché io non potevo concupire il mio sposo. Che il pane non c'ha i denti e non il caso nostro, per quell'enorme arnese non trovavamo un posto. L'amore tra di noi è forte più che mai, seppur non senza guai, ci amiamo tanto. L'amore non curati di quelle grosse corna, e mi dispiace che non posso mettermi la gonna. Pure sei bellissima, io ti amo assai, e poi vabbè pazienza se quella non ce l'hai. Mio amoroso sposo, ti devo confessare che a breve la mandibola io mi farò operare. Ma com'è mai possibile? Io non ne usufruisco, chissà com'è successo, davvero non capisco. Lo sai, magari è solo un dente del giudizio, domani dal dentista lo chiederò Maurizio. Ma non si chiama Carlo? È vero che spadata. E l'altra volta ancora l'hai chiamato Luca, in effetti mia sirena è un po' che ci pensavo, ma come mai il soffitto prima non lo toccavo? Ma dai, non fare storie, le avevi pure prima. Ma erano più piccole e pure un po' più corte. Adesso non discutiamo che noi ci amiamo tanto e niente può fermare quest'amore che ha un incanto.